24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Just a perfect day. Drink sangria. Una notte storica, indimenticabile non solo per la Germania dell'Est, ma per tutta la Germania e per il mondo intero. Nel giro di poche ore, dopo 28 anni, il muro di Berlino nel cuore dell'Europa, simbolo della contrapposizione del mondo in due blocchi, è stato abbattuto per sempre. Ecco, professor Sergio Romano, buongiorno. Lei, buongiorno. Nel suo ultimo libro, In lode della guerra fredda, sostiene che in realtà la caduta del muro di Berlino ha fatto finire la pace, non la guerra. È una provocazione la sua? No, purtroppo è soltanto una constatazione, e credo che questo sia dovuto al fatto che non si è sufficientemente valutato l'importanza degli equilibri che l'arma nucleare aveva garantito. Non è vero che il nucleare sia necessariamente pericoloso, in determinate circostanze può addirittura essere il pilastro su cui costruire un rapporto equilibrato, perché è chiaro che nella logica nucleare si può sparare per primi soltanto se si è sicuri che si sopravviverà al secondo colpo dell'avversario. Cioè, in realtà, secondo lei, la guerra fredda ha garantito la pace più lunga della storia per il continente eurasiatico, basato sulla paura del nucleare? Certamente. E i guai sono cominciati quando qualcuno ha creduto di avere vinto la guerra fredda. E questo naturalmente è accaduto negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti erano convinti di avere vinto la guerra fredda, e il vincitore crede sempre di poter fare ciò che più gli sembra utile e opportuno. Certo, quindi più che di guerra fredda si era trattato di una pace fredda fondata su convenienze specifiche e la paura. Naturale, e questa so che può sembrare a molti, voglio dire, una pace artificiosa, una pace non sufficientemente umana e morale, ma in politica internazionale si usa ciò che può essere utile, non si sogna. Sulla fine dell'Unione Sovietica, senta questa testimonianza di Gorbaciov sul ruolo che ha avuto Papa Wojtyla. Il ritorno di Giovanni Paolo II in patria ebbe un effetto enorme, enorme, soprattutto per come lo accolse la Polonia, perché in effetti fu accolto da tutto il popolo, fece una forte impressione. In particolar modo perché tutti si resero conto che in quell'accoglienza non c'era solo la dedizione dei polacchi alla fede, ma la fortissima ondata di sostegno, chiaramente, fu recepita non solo come una naturale manifestazione di fede, come il benvenuto a un compatriota che ora era a capo della Chiesa Cattolica, ma anche come una sfida al regime politico. Comunque da Mosca non si tentò in alcun modo di impedire quel viaggio. Il Papa ha criticato con decisione i difetti sia del capitalismo che dei regimi comunisti. Per cui direi che oggi Sua Santità è la persona più a sinistra, perché nessuno parla con tanta passione e tanto dolore della povertà e di quei milioni di persone che sono tagliati fuori dalla vita normale. Io proporrei di dichiarare che oggi la persona che ci dimostra che abbiamo bisogno sia degli uni che degli altri valori è proprio Sua Santità. Santità, e io lo stimo per questo. Egli è veramente una grande personalità della nostra epoca. Ecco, questo era Gorbaciov che parlava di Papa Wojtyla, e fa impressione abbastanza. Secondo lei, qual è stato il ruolo del Papa, se c'è stato, in questa fine della guerra fredda? Anzitutto le rispondo a proposito delle parole di Gorbaciov, sì. Che era evidente l'interesse di Gorbaciov in quel momento avere simpatia e comprensione in una istituzione che ha una straordinaria prestigio. Certo, naturalmente. E quindi non sempre necessariamente le parole di Gorbaciov devono essere prese alla lettera. Io credo che Giovanni Paolo II sia stato straordinariamente utile al suo paese, alla sua nazione, al suo popolo, e che abbia, per così dire, creato una diga di protezione da cui la Polonia ha tratto enormemente vantaggio. Quanto a sostenere che Giovanni Paolo II abbia in qualche modo provocato la fine del sistema sovietico. Certamente no. No. No, direi certo. Che non soltanto non è vero, ma è in qualche modo fuorviante. Ecco, ma alla fine, la fine dell'Unione Sovietica fu l'Unione Sovietica. Assolutamente, è l'Unione Sovietica che in qualche modo ha perso la sua partita. Vede, l'Unione Sovietica avrebbe potuto sopravvivere ancora 10 anni, ancora 20 anni, non era necessariamente destinata al tracollo. E in realtà la causa principale del tracollo fu Gorbaciov, perché Gorbaciov ritenne erroneamente, fu un errore generoso, nobile per molti aspetti, ma ritenne che il sistema sovietico potesse essere riformato. Vede, la cosa più interessante è che Gorbaciov riteneva che il partito potesse in qualche modo modificare le sue funzioni, smetterla di essere, come dire, la spina dorsale del paese. Un po' come in Cina oggi, insomma. Esattamente, sperava che il partito potesse diventare, come dire, una fucina delle idee, un luogo, un laboratorio di progetti, eccetera. Il partito non era invece altro che burocrazia, e la burocrazia non vuole perdere le posizioni. Sopravvive a se stessa, insomma, e basta. Sopravvive a se stessa, sono dei, come si diceva una volta, dei rentier, cioè persone, certo, che vivono di rendita. Di rendita. Non hanno nessuna intenzione di favorire le riforme che in qualche modo ridurrebbero la rendita. Certo, ecco. Professor Romano, ma adesso nel mondo multipolare l'umanità sembra non riuscire a trovare un punto politico di equilibrio. C'è una qualche voglia di ritornare alla guerra fredda, pur se con un equilibrio fondato sul terrore, sulla paura? No, penso che questo non sarebbe realistico, oltretutto ne sarei anche preoccupato se davvero qualcuno avesse questo tipo di filosofia. Quello che accade in Ucraina è abbastanza preoccupante, ed è inutile tentare la strada delle crisi per sperare che dalle crisi nasca la stabilità. No, credo che sia invece logico tornare a una concezione della politica internazionale in cui l'equilibrio può anche essere garantito dal timore che la situazione scappi di mano. Ecco, senta però Putin nell'ultimo discorso alla nazione. Nonostante il muro di Berlino sia crollato, si costruiscono nuovi muri. L'espansione della NATO non è forse un muro? Un muro virtuale? I nostri partner si credono un impero, ci vogliono vassalli. Servirebbe invece un solo spazio umanitario di libertà e di commercio. Ecco, questa posizione forte che rivendica la propria identità è un punto di partenza per un nuovo equilibrio in qualche modo da guerra fredda, oppure no? Ma io penso di sì, Putin non ha torto. È vero che gli si rimprovera l'annessione della Crimea, ma è più grave modificare i confini geografici, o è invece più grave, a mio avviso mi sembra che lo sia, modificare i confini geopolitici di un'alleanza politico-militare che è inevitabilmente destinata ad essere percepita come un'alleanza contro un nemico virtuale. Quando si è allargato la NATO, si è dato l'impressione che occorreva, come dire, proteggere i nuovi membri da un pericolo, e in quel modo si era già individuato il pericolo, e naturalmente a Mosca a un certo punto essere percepiti come l'avversario di domani non... Professor Romano, insomma, gli interessi americani e quelli europei stanno divergendo in modo definitivo rispetto alla Russia? Io credo di sì, ma vedo anche nella parte in Europa una certa indolenza, una certa pigrizia, una certa timidezza, molta paura di incrinare un rapporto con gli Stati Uniti da cui a torto o a ragione si ritiene che dipenda la propria sicurezza. Veda il caso della Germania, abbastanza significativo. Capisco che la Germania debba cercare in qualche modo di non fare dimenticare il proprio passato, ma di evitare che la si consideri in qualche modo nostalgica. Capisco perfettamente che il rapporto con gli Stati Uniti non può essere incrinato, ma spingersi sino ad avallare politiche americane che si sono rivelate profondamente sbagliate. Dopotutto, cioè, manca in America una cultura per gestire questa dinamica in movimento continuo sul fronte geopolitico, non più garantita in qualche modo dal muro di Berlino? Ma vede, anzitutto la politica estera americana è il risultato di molti fattori. Un fattore certamente è l'ambizione imperiale di un paese che si considera in qualche modo superiore, egemone, diverso, indispensabile, come diceva Madeleine Albright. Ma vi sono altri fattori che in qualche modo costituiscono la politica estera americana. Il fatto che tutto diventa elettorale e le lobby nazionali negli Stati Uniti, un paese necessariamente molto multinazionale, sono delle lobby che possono esercitare dei poteri considerevolmente superiori a quello della loro consistenza democratica. Perché in realtà i tempi della politica in America sono molto brevi. Sono molto brevi e la Costituzione in qualche modo è fondata sul principio che l'antitesi, l'antinomia fra il Presidente da un lato e il Congresso dall'altro sia necessaria al funzionamento della democrazia. Questo può essere vero in alcuni casi, non diventa più vero quando a un certo punto il Congresso nega al Presidente degli Stati Uniti da un giorno all'altro il denaro con cui fa funzionare la macchina dello Stato. Ecco, senta quello che ha detto Kerry, ministro degli esteri americano, praticamente dopo l'incontro con Lavrov l'altro giorno. È interessante. Guardando al successo degli accordi di Ginevra sulla rimozione delle armi chimiche siriane, vorrei sottolineare che abbiamo visto cosa succede quando Russia e Stati Uniti lavorano insieme. Ecco, è stupefacente perché in realtà gli americani volevano bombardare la Siria. Poi sono intervenuti la Russia e in qualche misura anche il Papa e hanno fermato il bombardamento. Adesso sono i più grandi alleati e sono passati pochi mesi. E questo volevo dire, è lì che manca una visione strategica? No, non manca il Kerry una visione strategica, credo che sia un eccellente segretario di Stato per molti versi. E forse non manca nemmeno a Obama, anche se in Obama prevalgono le preoccupazioni di politica interna. No, il problema è che Kerry è il segretario di Stato di un paese in cui la Costituzione consente al Congresso di paralizzare l'opera del governo. Quindi fa delle dichiarazioni interessanti e utili, ma queste dichiarazioni poi non possono tradursi in politica se il Congresso in qualche modo continua a boicottare la politica estera dell'amministrazione. Quindi il conflitto tra democrazia rappresentativa e democrazia governante è fortissimo anche negli Stati Uniti, dove si dice che il Presidente degli Stati Uniti è l'uomo più potente del mondo. Sì, tenga presente perché c'è in questa faccenda purtroppo un altro aspetto difficilmente confessabile. Io credo che molte delle resistenze che sono state messe in opera contro Obama abbia anche in fondo un inconfessato pregiudizio razziale. C'è un'America che ancora non tollera l'idea di un presidente di colore. E per molti aspetti, qui mi spingo forse a fare una supposizione ingiusta, ma vedo che anche il comportamento di certe polizie mi sembra diventato quasi intenzionalmente una sfida a quella che qualcuno probabilmente considera il rischio di una egemonia dei neri o comunque di popolazioni di latinoamericani contro quelli che non hanno un'ascendenza europea, che non sono una parte essenziale della componente della cultura politica e nazionale americana. Ho l'impressione qualche volta che quando la polizia esagera, lo esagera con un animo che nasconde un'intenzione forse. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Scoprimmo le nostre immense riserve quasi per caso. In realtà stavamo cercando delle falde acquifere, ma lo stesso succede anche oggi. Cerchiamo l'acqua e scopriamo nuovi pozzi. Con l'embargo petrolifero del 1973, l'Arabia Saudita capisce che l'economia dell'Occidente potrebbe essere nelle sue mani. E questo pone Re Faisal al centro della scena politica internazionale. L'America ha bisogno di annullare al più presto l'embargo. Da Washington, Nixon invia in Arabia Saudita Henry Kissinger, che in quel momento è sia segretario di Stato che consigliere alla sicurezza, per un'urgente missione diplomatica. Kissinger garantì a Faisal che avrebbe dedicato ogni sua energia alla risoluzione del problema palestinese. Ma Kissinger aggiunse anche: Maestà, non potrò far nulla fin tanto che lei manterrà l'embargo. Su questo punto, sull'embargo, Faisal si fidò della promessa di Kissinger. Faisal si aspettava che Kissinger avrebbe onorato l'impegno preso. E invece questo non avvenne mai. Ecco, Davide Tabarelli, buongiorno, presidente di Nomisma Energia. Quella promessa non mantenuta da Kissinger è stata la base di una progressiva incrinatura dei rapporti tra Arabia e tra Arabia Saudita e Stati Uniti sul fronte del petrolio? Ma io vedo tutt'altro, cioè i rapporti sono sempre stati intensi, forti, perché negli Stati Uniti hanno sempre importato tantissimo al Golfo Persico, hanno garantito la pace e non poteva essere diversamente. Sì, però nei giorni scorsi il re dell'Arabia Saudita, il nuovo re, non è andato negli Stati Uniti per parlare con Obama dei nuovi assetti del mondo del petrolio. Questo significa che qualcosa sta cambiando da quando... Ma guardi, è sempre stato un rapporto difficile dagli anni 30, quando cominciarono le compagnie americane, certo, a scoprire enormi quantità di petrolio. È un paradosso, il maggior paradosso che ci può essere nelle relazioni estere americane. Tuttavia gli americani e gli Stati Uniti non possono fare a meno dell'Arabia Saudita per garantire stabilità al Golfo Persico, che vuol dire stabilità o prezzi in calo anche del petrolio. Però l'Arabia Saudita è anche una delle principali finanziatrici dell'ISIS. Ma non solo, 15 dei 19 attentatori di 9-11, l'attacco alle due torri, appunto, erano sauditi. Perciò è il massimo paradosso tuttora insoluto. Ecco, però gli Stati Uniti riusciranno a tenersi in equilibrio tra Iran e Arabia Saudita sulla politica petrolifera adesso che il fronte dell'Iran si è aperto in modo abbastanza chiaro? In equilibrio no, è tutta una questione. Dovranno scegliere? È una questione di potere militare, guardi, e di soldi, perché hanno trasferito lì. Beh, di petrolio. E anche di petrolio, certo. È positivo, secondo me, che l'Iran torni verso l'Occidente, perché è da più dal 79, da più di 30 anni che c'è questo... Soprattutto per noi italiani, che con l'Iran abbiamo rapporti commerciali storicamente significativi. Commerciali e culturali. E culturali, natura. Ecco, ma naturalmente, ma sarà guerra a suon di barili tra Arabia Saudita e Iran? Sì, è già in corso dal 27 novembre dell'anno scorso, è stata la causa del quasi dimezzamento dei prezzi del petrolio, adesso c'è un po' di ripresa, ma è sempre lo scontro Iran-Arabia Saudita quello che determina l'andamento del prezzo del petrolio. Ecco, ma il prezzo del petrolio secondo lei è stabile o tende a risalire? Ma è oscillante, fortemente oscillante. Sì, tra i 50 e i 60. Siamo scesi ai 45, rimbalzato adesso verso i 70, ci attendiamo un po' di discesa nei prossimi giorni, perché in queste ore le statistiche ci dicono di un'enorme abbondanza di offerte, questo è positivo per noi consumatori. Ecco, ma intanto però il crollo del prezzo del petrolio, se non sbaglio, in qualche modo ha messo in crisi, dottor Tabarelli, l'industria dello shale gas negli Stati Uniti, che era lo strumento anche per andare verso un'autonomia assoluta. Sì, diciamo, premesso che è stato un aiuto enorme all'economia globale, anche quella italiana, effettivamente ci sono dei problemi negli Stati Uniti, tutto è misurato da queste trivelle che erano quasi 2.000 un anno fa, adesso sono meno di 1.000, si sono dimezzate. Però la produzione continua ad aumentare. Ma esploderà una bolla speculativa sullo shale gas? Molti dicono che deve esplodere, l'aspettiamo però anche questa da 2 anni. Effettivamente queste sono società che si sono indebitate molto, perché è una delle condizioni di questo successo americano, l'abbondanza di finanza. Abbondanza che ci ha fatto salire anche il prezzo del petrolio da valori storici di $30 a 140 a luglio 2008, poi 100 negli ultimi anni. Troppa finanza ha degli effetti positivi anche però. Ecco, dottor Tabarelli, ma per l'Italia questo scontro che conseguenze può avere? Ma l'Iran e l'Arabia Saudita positiva finora, perché i prezzi sono scesi. L'Italia è uno dei paesi più dipendenti da importazioni di idrocarburi, gas e petrolio, appunto, hanno prezzi legati a queste quotazioni internazionali. Pertanto per il momento positivo, ma è positivo quello che dicevamo prima, l'avvicinamento dell'Iran verso l'Occidente. Ma l'Italia, no, dicevo, la Russia per l'Italia è un partner da privilegiare di più su questo fronte oppure no, secondo lei? Dal suo punto di vista di osservatore, lo ripeto, presidente di Nomisma Energia. Sì, certamente da privilegiare, è un peccato che vediamo un peggioramento delle relazioni con è un grande paese europeo che è vicino storicamente a noi, che mi consente cristiano, che questo legame fortemente culturale, storico, ma che ha le riserve di gas più importanti al mondo, riserve enormi di petrolio convenzionale che ha costi di produzione bassissime, che ha una popolazione la cui aspettative di vita scendono, che ha bisogno di stabilità economica, ha bisogno di riforme, di mercato, ecco. Ha bisogno di essere unito l'Europa, non separato come lo è adesso. Ecco, a noi parlavamo prima dei nuovi spazi che si aprono nei rapporti italo-iraniani. Ci sarà una corsa per trovare nuovi spazi, appunto, che chance hanno in questi spazi le aziende italiane? Ma ne hanno tantissime, noi abbiamo grande tecnologia, nonostante che soffrano le nostre compagnie di cattiva luce, in particolare in Italia, però grande tecnologia, buone relazioni industriali, anche questo marchio italiano, affidabile, sono tutte ragioni che ci mettono in una buona posizione. Del resto non bisogna dimenticare che l'ENI fece dell'accordo allora con l'Iran nel 1957 uno dei suoi chiavi di successo per inventare quello che disse Mattei, il potere delle sette sorelle, di scalfirlo un po' questo potere che poi gli costa un po' caro secondo alcuni. Senta, ma la lotta al terrorismo e la trasformazione degli interessi di cui abbiamo parlato nel mondo del petrolio si incrociano pericolosamente per il mondo da qualche parte? È quello che accennavamo prima, Bin Laden aveva tutti i soldi, un po' di suo padre che aveva fatto i porti che esportano petrolio dall'Arabia Saudita, aveva fatto gli aeroporti, ma poi questo enorme flusso di denaro che paghiamo noi, che va nelle tasche di questi paesi produttori ricchissimi, qualche briciola finisce in questi gruppi terroristici, perciò il legame è diretto. Non è diretto. Dubbio. Senta, c'è Mario Secchi che vuole fare una domanda, dottor Tabarelli. Buongiorno Tabarelli. Buongiorno. Sarò insomma secco e provocatorio. Ma il prezzo basso del petrolio è una disgrazia? No, non lo è mai, perché questa è la linfa vitale dell'economia globale, ripeto, italiana. L'Italia è il più motorizzato al mondo, tenendo conto delle due ruote, perciò è sempre positivo. Bene, grazie dottor Tabarelli. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms 931 49, pubblicità. Mix 24. Passano gli anni, i treni topi per le fogne, i pezzi in radio, le illusioni, le cicogne. Passa la gioventù. Pietrangelo. Pietrangelo anche da lontano, perché non è qui con noi all'aeroporto. Ci fa sentire la sua musica, quindi niente metropolitana oggi? No, niente metropolitana, però mi sono incamminato e in un transito dove tutto è affollato e provvisorio ho incrociato il grugno di mezze verità, perché belli, inutilmente belli, i sostantivi si sono adagiati nei tappeti mobili dell'aeroporto, tra i corridoi di quelle che sono delle stazioni ulteriori, quasi dei passaggi danteschi, e qui, in questo universo, tutto accigliato, ho trovato la teoria che si è svanita nelle sue nuvole, e poi la prassi, sempre nuvolosa, e il soggetto spilungone a svettare tra tutti, e poi ancora l'oggetto, ormai obeso, e poi il corpo, tutto di res extensa, e il senso, sempre senza senso, e il nulla, e infine padrone di quell'assoluto fatto di sostantivi, cui basta, per dirla con Gottfried Benn, spalancare l'ali che già i millenni sfuggono al loro volo, e appunto di passaggio, come questa canzone di Franco Battiato. Mario, ecco. Mario, tu che cosa ci proponi? Vado a Washington, lo sai. Vai a Washington. Sì. You can be me, and I drink all the time. Questa è la bellissima voce di Gianluigi Cavallo, che è stato frontman dei Lifiva. Senti. And that is a fact. È un'interpretazione di Heroes di David Bowie. Ancora un po'. Yes, we lovers. Oh, bella. Per introdurci agli eroi del nostro tempo, che sono quelli che poi cercano di muovere l'economia, non sono i banchieri, anche se potrebbero esserlo, perché in fondo hanno il volano e il motore del denaro, certo. Ma sono le imprese, le famiglie che tirano la carretta, come sempre, in ogni parte del mondo. E però di banchieri bisogna parlare, perché, come avevamo annunciato ieri, Draghi è stato a Washington, al Fondo Monetario, ha fatto le letture di Come des Sous, così si chiamano, ha parlato con la Christine Lagarde, e la cosa più importante che ha detto, per la prima volta, ha messo in evidenza come le politiche monetarie ultra espansive portino dei seri problemi, o comunque rischiano di creare dei problemi, in particolare bolle, quindi bolle speculative molto forti. Quando certo. tu acquisti titoli, è chiaro che gonfi in qualche maniera, no, le valutazioni, certo. E ineguaglianze, cioè si continua a discutere di questo problema, secondo me sempre più grande, cioè ingiustizie sociali crescenti. Sì. Tu sai che io non sono un demagogo, che penso che bisogna guadagnare e fare soldi, certo, però, sì. Però qua, insomma, c'erano le 20, bolle speculative 20, non producono 25 ricchezza. Gestori di hedge fund, ricordo, guadagnano tutti insieme quanto tutti i dipendenti, gli impiegati del settore degli asili in tutti gli Stati Uniti in 25. Okay. Guardavo ieri questa statistica, era allucinante. Salamini. Entro il 2 luglio, con una mozione firmata da maggioranza e opposizione, si formalizzerà al sindaco Ignazio Marino la candidatura di Roma per i Giochi Olimpici. In realtà la città di Roma non ha ancora preparato un serio dossier, non ci sono infatti gli elenchi degli impianti sportivi e neppure si è risolto il nodo di concessioni ultradecennali. Alle casse municipali infatti vengono a mancare, o meglio risultano volatilizzati in un ammanco che è calcolato dal 2001 ad oggi, circa 40 milioni di euro. Ma il pepe sul sederino di Marino lo ha spolverato ben bene Giovanni Malagò, presidente del CONI, e questo proprio mentre il sindaco diceva tutto a posto, siamo pronti, e appunto in tutto ciò Malagò scopriva il nulla di fatto. Il risultato concreto è per ora quello di una sorta di trattamento politico coatto, diciamo così, un trattamento politico coatto su Ignazio Marino. Due, infatti, sono i capitoli importanti di Roma. Uno è il Giubileo, dove di fatto si allunga il profilo di un sindaco ombra, Franco Gabrielli, se non in aggiunta allo stesso Francesco Rutelli. E poi l'altro capitolo, le Olimpiadi, dove con questa mozione da presentare entro il 2 luglio, l'altro cono d'ombra sull'incredibile Marino, incredibile davvero come possa essere sindaco Ignazio Marino, disegna l'elegante silhouette di Giovanni Malagò, il quale al meglio rappresenta Ermeio del Colosseo, il nostro Romeo. Proprio non me va, se domani qui sarò, oggi chi lo sa, forse un po' m'acchitterò e me ne andrò. Pascal, grazie Pietrangelo. Pascal Vicedomini in diretta dal 68esimo Festival di Cannes. Ecco, il pubblico come ha accolto la proiezione del Racconto dei racconti, Pascal? Dunque, sia qui a Cannes che penso in Italia si possa dire che il film è stato accolto non bene, benissimo, visto che a Cannes ha avuto 7 minuti di applausi, critiche molto entusiasmanti da parte dei principali giornali internazionali. Ma non tutti, però mi sembra che la tutti. Critica francese sia più diffidente, no? Assolutamente no, c'è qualcuno, Paris Match ha parlato del film come un bellissimo film, la qualità di un'opera barocca. a volte diseguale ma sempre sorprendente. Il tutto, il futuro di questo film dipenderà dal passaparola che ci sarà, perché sicuramente è un film che impacca. Senti, ma la tua esperienza di questo festival, secondo te quali dei tre film italiani potrebbe più essere più adatto all'anima del festival? Allora, sicuramente la grande vittoria italiana è già di Paolo Sorrentino, in quanto ieri è stato annunciato che la Fox Searchlight, ovvero un settore, un dipartimento della 20th Century Fox di Rupert Murdoch, ha acquistato il film per gli Stati Uniti e quindi lo distribuirà in Nord America. Quindi distribuito in Nord America vuol dire certamente un grande successo anche per chi l'ha prodotto, naturalmente. Assolutamente, no? Se l'è prodotto Sorrentino insieme ai suoi fidi amici. E anche con Rai Cinema, mi pare, no? Medusa. Cui si è sempre legato. Senti, c'è qualche indiscrezione sugli orientamenti della giuria? È troppo presto. Comunque si parla di due capolavori, Carol con Cate Blanchett, australiana straordinaria, interprete di tanti bellissimi film, e poi Macbeth con Michael Fassbender e La Cotillard. Bene, allora ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie Pascal, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Sotto gli occhi da sempre distratti del mondo, sotto i colpi di spugna, c'è un periodo che mi piace lì. Va bene, abbiamo capito. Quindi vai così. Però andiamo in Asia in realtà. Segnaliamo un'altra cosa importante, sempre per Come gira il mondo, che Narendra Modi, il premier indiano, è in visita in Cina. Avevamo dato conto del viaggio in Pakistan del presidente cinese. Quell'area del mondo è un cantiere praticamente continuo a cielo aperto. Modi e il suo omologo cinese, Li Keqiang, firmeranno un accordino da 10 miliardi di dollari. Segnalo che in quelle aree del mondo noi non ci siamo. Ci siamo pochissimi. Io segnalo che B.B. King è morto a 89 anni e quindi, a New York, e quindi un piccolo... Grandissimo. È enorme. Senti, come ogni venerdì, adesso è arrivato il momento della posta del cuore, e se avete voglia di sfogarvi e raccontarci le vostre storie, scrivete a mix24@radio24.it, la posta del cuore. Dopo anni di incontri mediocri ho una relazione emozionante. Avevo dimenticato la gioia martellante per un appuntamento che si avvicina, il non riuscire a dormire per quel brivido che ti è rimasto lungo la schiena. Ma avevo dimenticato anche altro, fino all'altra sera al ristorante. Parlavamo di gelosia con quella leggerezza che si può ostentare giusto all'inizio di una storia, fingendo che la cosa non riguardi i presenti. Lui ha detto: «Alla fine per un uomo l'importante è il possesso». Così mi sono ritrovata a chiedermi: ma se io fossi sua, lui sarebbe mio? E mi sono rivista a soffrire per una telefonata che non arriva mai, ad angosciarmi per il suo weekend di lavoro fuori. E ho avuto voglia di chiuderla lì, perché non voglio la gelosia, l'insicurezza, la paura, quel tormento che ti assale quando lui potrebbe essere con chiunque. Meglio scappare, come ho sempre fatto negli ultimi anni. Oppure non può esserci amore senza avere paura di perdersi. Pietrangelo, aiutaci a ritrovarci. Una sola cosa posso dire: non siate onnicercanti, non siate onninterpretanti, perché tutto ciò che si esperisce è nominato dal cielo, e quando si è in un colloquio come quello della Nostra Signora di lui, non ci si può che ascoltare reciprocamente, ma sempre senza cercare, senza interpretare. Vito della saggezza. Ti è mai successo di sentirti al centro? Al centro di ogni cosa, al centro di quest'universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare. Che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi anche fermare. Cambiarne il senso della direzione per tornare. Nei luoghi e il tempo in cui hai perso ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so volare. Cara la nostra scrittrice, rimettiti al centro dell'universo, recupera le ali, i sogni e il cuore che hai perso da qualche parte e torna a volare, non a scappare. Mario, c'hai ancora una piccola bolla? Ma segnalo che ogni tanto all'estero si occupano di noi. Sul Wall Street Journal c'è il ministro Guidi che parla del disegno di legge sulla concorrenza. Il fatto che gli abbiano dato, come dire, spazio significa che un po' nella business community forse ci questo credono. Questo Made in Italy forse riusciamo a tutelarlo un pochino. Renzi sta godendo ancora di buona stampa, diciamo, per fortuna all'estero, quindi è ancora credibile. Bene. Poi sai come funzionano con quelli, no? Vabbè, se arrivano gli affari, bene, se no niente. Ecco, Marina Milone, che cosa raccontiamo dopo il giornale radio oggi? Ecco, prosegue il nostro racconto nel mondo delle spie e questa volta ci spostiamo ad est, nelle operazioni nella struttura del KGB, il servizio di intelligence dell'Unione Sovietica. E appunto parliamo delle attività di spionaggio nella lotta tra est e ovest. La guerra fredda delle spie, per restare in tema. Bene, grazie. Dopo il giornale radio, allora la prima puntata sul KGB. Ecco, noi avevamo pensato per chiudere Ragazzo triste di Patty Pravo, ma io penso che sarebbe meglio ritornare su B.B. King. When her birthday comes around, but soon as she get a present, she'll long talk you all over. No, don't ever trust a woman until she's dead and deep. One day she'll say that she loves you, and the next day she'll throw you in the street. She'll beg you for clothes and diamonds until you're all in hock. And then you'll come home one morning and your key won't fit that lock. Don't ever trust a woman until she's dead. Well, one day she'll say that she loves you. The next day she'll throw you in the street. She'll call you every morning, every morning, noon and night. She'll call you in between times just to see if you're doing all right. She'll ask to borrow five, and then she'll beg for ten. And baby, that five and ten, you won't ever see her.